in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani che, come potete immaginare, hanno delle prime pagine sostanzialmente concentrate sull'attentato di venerdì a Dhaka in Bangladesh, di cui avete sentito parlare anche nel GR, di cui parleremo sicuramente molto nei prossimi giorni, perché oggi è il giorno del cordoglio e nei prossimi giorni si spera arriverà qualche cosa in più sulle indagini che verranno condotte dalle autorità del Bangladesh. Cominciamo quindi dal Sole 24 Ore che titola a tutta pagina "Il massacro ISIS di Dhaka, 20 civili uccisi, 9 sono italiani". Naturalmente interessanti le analisi per cercare di capire come si arriva, come diceva Alberto Negri nel suo editoriale, come ci si sveglia al sabato mattina, perché l'attentato è avvenuto nella notte, le notizie precise hanno cominciato ad arrivare ieri mattina, come ci si sveglia scoprendo che Bangladesh, un paese da 156 milioni di abitanti, è appunto un altro bersaglio e covo di terroristi, bersaglio dei terroristi, ma anche covo di terroristi. E allora le analisi che vi segnalo sono quelle di Alberto Negri, la Jihad nel distretto mondiale del tessile, dove si parla appunto anche dello sviluppo industriale del Bangladesh negli ultimi anni, grazie soprattutto all'industria tessile, e poi la mappa globale del terrore invece di Ugo Tramballi, lo trovate a pagina 3. Vi segnalo anche il disegno di Domenico Rosa, che su sfondo nero c'è una specie di filo a cui sono appese le lettere che compongono la parola Jihad e sono fatte da maceti e scimitarre, perché è così che i terroristi ieri hanno colpito. Un'altra notizia però importante sul Sole 24 Ore economica è quella che riguarda la trattativa sulle banche, che è una trattativa italiana, europea e forse non solo. Per quanto riguarda appunto le banche italiane e quello che si sta cercando di ottenere a livello europeo, il titolo è "Ricapitalizzazioni, apertura dell'Unione". E infatti la Commissione europea ha ammesso che ci possano essere dei negoziati sugli aumenti di capitale definiti precauzionali, che siano quindi in linea con le regole europee. Naturalmente sui mondiali sugli europei di calcio, sulla sconfitta di ieri dell'Italia agli europei di calcio, qui c'è un affiancamento curioso tra due analisi: Italia-Germania, il calcio, e qui è un articolo di Dino Zoff, grande portiere italiano. Stavolta ci hanno battuto, ma resta una partita infinita, quella naturalmente tra le nostre due squadre di calcio. E poi Italia-Germania, l'economia, qui è Fabrizio Galimberti, che invece fa un parallelo tra le situazioni, parlando anche per esempio della questione delle banche, tra Italia e Germania, perché sapete che l'Italia comunque in Europa è seconda solo alla Germania come paese manifatturiero, per esempio. Quel fallo non fischiato sul surplus commerciale, questo è il titolo dell'analisi di Fabrizio Galimberti. La consueta lettera al risparmiatore della domenica, questa settimana Vittorio Carlini la dedica alla IMA, che è un'azienda che opera nel settore alimentare. E poi, visto che su Brexit il Sole 24 Ore ha, da quando c'è stato l'esito del referendum, cioè venerdì scorso, ha dedicato tantissime analisi per cercare di capire cosa succederà, e sappiamo che è tutto molto incerto, perché è anche incerto lo scenario politico britannico che si è aperto dopo il voto. Quindi vi segnalo l'ultimo articolo, poi ci lasciamo un attimo per la pausa per il traffico, di Luca Ricolfi, "Tanto rumore per poco", quindi non "much ado about nothing", cioè tanto rumore per nulla, come si intitola la commedia di Shakespeare, ma "tanto rumore per poco, se per ora la Brexit fa più male a noi che a loro". Ma ora un attimo di pausa per il traffico. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Dopo aver visto la pagina del Sole 24 Ore, passiamo a quella del Corriere della Sera. Anche qui un titolo a tutta pagina: "ISIS, la strage degli italiani". Moltissimi gli approfondimenti, e come anche su molti altri giornali ci sono le foto delle vittime e poi all'interno anche dei brevi profili, sulla loro vita, quel poco che si sa, e sul perché erano a Dhaka in questi giorni. sulla prima pagina del Sole 24, del Corriere della Sera, naturalmente anche gli europei, in questo caso l'analisi di Mario Sconcerti, la favola degli azzurri si ferma all'ultimo rigore, e in prima pagina anche la morte di Elie Wiesel, l'avete sentito anche nel GR, il Nobel della Shoah. E approfitto per salutare la nostra ascoltatrice Pina, che è affezionatissima e temeva di aver sbagliato la grafia di Elie Wiesel. No, non l'ha sbagliata, è proprio quella, e qui trovate un ricordo di questa figura importantissima, non solo come sentinella della memoria, ma anche perché per tantissimi anni Elie Wiesel partecipò alla caccia che si è svolta poi in tutto il mondo, in particolare in Sud America, ai gerarchi nazisti che erano riusciti a sfuggire. E l'articolo quindi di Davide Frattini lo trovate a pagina 31. La Stampa, anche in questo caso a tutta pagina, la strage degli italiani, qui il commento è del direttore Maurizio Molinari, la jihad mutante del califfato, del califfo, scusate, e anche in questo caso le foto delle 9 vittime con la loro città natale o città di residenza e la loro età, e poi all'interno brevi profili. Gigi Garanzini firma il commento ai quarti di finale di ieri, dove l'Italia è stata eliminata dalla Germania. Peccato azzurri, la resa arriva solo ai rigori. E poi un accenno che soltanto la Stampa fa in realtà in prima pagina al commento a caldo di Conte, che non ha rinunciato a fare una specie di polemica, e infatti il virgolettato scelto dalla Stampa è: in questi due anni in cui è stato commissario tecnico della Nazionale, nessuno al mio fianco. La Repubblica, anche qui titola tutta pagina, Dacca, l'ISIS fa strage di italiani, in questo caso il commento è del fondatore di Repubblica ed ex direttore Eugenio Scalfari: la guerra al califfato e la crisi dell'Europa. Molti, ma anche lo stesso Premier Renzi o il nostro Presidente Mattarella, hanno sottolineato che ancora di più, alla luce di questi attentati, serve rendersi conto che contro il terrorismo in Europa, per esempio, serve una strategia globale, che poi è facile a dirsi e molto più difficile a farsi. Però intanto come enunciazione è sicuramente inconfutabile. Il commento di Mario Calabresi, direttore di Repubblica, è l'esercito invisibile che solca il mondo. Mentre per quanto riguarda gli europei, Gianni Mura, tra orgoglio e dignità, Maurizio Crosetti, finale con beffa. Trovate tutto dopo le pagine 50 della Repubblica. Il Messaggero, il massacro degli italiani. Anche in questo caso moltissime le analisi, e poi in prima pagina una notizia, un risvolto di questo orribile attentato, che trovate anche sugli altri giornali, non con questo risalto: gelo di Renzi verso Dacca per il blitz non concordato, che sapete che c'erano appunto i terroristi asserragliati dentro al ristorante. A un certo punto sono entrate le cosiddette teste di cuoio del Bangladesh, però questo era appunto un blitz non concordato. E può accadere, invece è accaduto in altri casi, che se si conosce la nazionalità della maggior parte delle persone che sono all'interno, sono ostaggi in questo caso di terroristi, si stabilisce un contatto con le autorità del paese a cui queste persone appartengono. Non è successo nel caso dell'attentato di Dacca. Avvenire, uccisi per odio cieco. E anche in questo caso tantissimo lo spazio. E poi uno spazio in copertina, l'appello che ieri Papa Francesco ha fatto con un videomessaggio ai partecipanti a un incontro ecumenico che si intitolava Insieme per l'Europa, e appunto a proposito di strategie comuni, per il Papa la vera strategia comune è che l'Europa deve restare accogliente. E poi in prima pagina anche richiama uno studio che mostra come l'Italia sulle politiche per la famiglia sia agli ultimi posti: poche risorse e servizi insufficienti. Lo abbiamo detto tante volte, la questione forse più evidente dai numeri quando si analizzano queste statistiche è quella degli asili nido, che in moltissime città, in particolare del centro-sud, mancano, sono insufficienti. Libero, un sobrio titolo: paghiamo chi ci uccide, e questo è il sommario. Gli autori della strage in Bangladesh, sovvenzionati anche dai bengalesi che vendono fiori e orologi sulle nostre spiagge e agli angoli delle strade. Eccolo le moschee segrete e come arruolano i jihadisti nei kebab. Io spero che Andrea Morigi, autore di questo articolo che poi continua a pagina 3, abbia veramente prove inconfutabili di affermazioni di questo genere, perché dire che appunto ragazzi, spesso giovani del Bangladesh, che vendono fiori, che tentano di venderci rose fuori dai ristoranti, spesso finanzino i terroristi direttamente o indirettamente, è un'affermazione talmente semplicistica che appunto spero che poi interrogato abbia delle prove inconfutabili. Sul processo Bossetti vi segnalo una specie di faccia a faccia, forse sapete perché l'ho scritto anche nei giorni scorsi, prima che arrivasse la sentenza di ergastolo per Massimo Bossetti. Sapete che Vittorio Feltri, direttore di Libero, è innocentista, dice di aver letto con attenzione le carte, di aver seguito il processo e di essersi convinto che appunto Massimo Bossetti è innocente. E allora poi alle pagine 14 e 15 trovate a pagina 15 una pagina intera in cui Feltri dice incastrato solo perché è un povero Cristo indifeso, e dall'altra parte invece una pagina, pagina 14, Cristina Lodi, che dice c'è una prova regina che non si può confutare, e come forse saprete la famosa prova del DNA. Il giornale Bestie islamiche, il sommario: 9 italiani sgozzati perché non sapevano il Corano. Questo purtroppo è un risvolto terribile di questa vicenda, cioè i terroristi sono entrati e dalle testimonianze dei superstiti pare appunto abbiano chiesto a chi era all'interno di recitare alcuni versetti del Corano, e quando questo non è avvenuto è scattata la mattanza con i maceti. Ma quello che mi fa più impressione è l'altra riga del sommario: tra le vittime 5 donne, punto, per vendicarle abbiamo un dovere, pretendere chiarezza dai musulmani. Questa idea della vendetta è raccapricciante, secondo me, però questa è l'opinione di Alessandro Sallusti, direttore del giornale, che firma l'articolo di copertina. Il Fatto Quotidiano ha in prima pagina la notizia con un risalto forse un po' minore rispetto ad altri, perché è sì in prima pagina e sì in una posizione molto alta. Il titolo è "In 20 uccisi col macete perché non sapevano il Corano", ma in realtà il titolo principale al centro della prima pagina del Fatto Quotidiano riguarda il comune di Roma, dove il sindaco Virginia Raggi sta cercando di compilare la lista della sua giunta. E il titolo del Fatto Quotidiano è "Movimento 5 Stelle a Roma, Grillo pacere. L'intervento del leader dopo giorni di liti tra correnti. Salta la nomina di Marra, che doveva essere vice sindaco. Frongia, un altro personaggio un po' contestato dai critici del Movimento 5 Stelle perché lo si accusa di essere troppo vicino a Virginia Raggi, che poi viene da dire, se lei lo vuole fare vice sindaco, certo che è un uomo di cui lei si fida ed è vicino, ma insomma vedremo, perché questa giunta, per ora questa giunta, mentre quella di Milano di Sala e quella di Torino del nuovo sindaco Appendino sono già pronte, questa è ancora appunto non è chiaro come sarà composta, pare, perché poi sono tutti retroscena a causa di queste differenti opinioni all'interno del Movimento 5 Stelle. L'Unità: strage di italiani, una foto presa dall'alto dell'esterno del ristorante dove è avvenuta la strage. Qui il testo ripreso in prima pagina è parte del commento che ha fatto ieri Matteo Renzi: il dolore e la lotta al terrore. Poi c'è una in prima pagina, e poi trovate due pagine all'interno su questa vicenda, su appunto la difficoltà che ha il sindaco di Roma Virginia Raggi a formare una giunta, e il titolo è "Raggi già vittima di guerra tra correnti del Movimento 5 Stelle". E poi un altro articolo richiamato in prima pagina, anche qui con un sobrio titolo, e anche qui verrebbe da dire attenzione a come usiamo le parole, comunque è di Claudio Petruccioli, e il titolo è "Austria è un vero golpe". Il golpe sarebbe la sentenza di una corte costituzionale, cioè il massimo organo di giustizia di un paese democratico come l'Austria, che Petruccioli si avventura a definire golpe, perché questa sentenza, dopo aver analizzato molto bene i voti, specie quelli che sono arrivati dall'estero per la elezione del presidente dell'Austria, ha sancito che il voto va ripetuto perché ci sono state delle irregolarità. Il Manifesto: la notte di Dhaka, e ci sono la foto scelta è quella di tre donne che chiaramente non esprimono la loro disperazione all'annuncio dell'attentato, perché appunto le vittime, abbiamo visto, sono 20, 9 delle quali italiane, le altre non sono italiane, e alle pagine 2 e 3 anche qui trovate un po' tutte le reazioni. E poi una notizia che non c'è su nessun altro giornale, che il Manifesto mette in prima pagina, e riguarda il rapporto delle vittime collaterali, potremmo dire, dell'uso dei droni. Obama, i morti civili inevitabile conseguenza, e stando alla relazione che James Clapper, direttore della National Intelligence, ha pubblicato, gli Stati Uniti tra il gennaio 2009 e il dicembre 2015 hanno condotto 473 attacchi contro il terrorismo, compresi quelli effettuati con i droni, e appunto ci sarebbero 116 vittime che non erano necessariamente i terroristi che i droni intendevano colpire, ma anche i droni sbagliano, anzi forse i droni sbagliano ancora di più. Però appunto la reazione del presidente Obama a chi ha criticato questi dati è: i morti civili sono una inevitabile conseguenza. La Gazzetta Sportiva, che sono sicura molti di voi oggi compreranno, sulla testa la foto è quella di Buffon inginocchiato subito dopo l'ultimo rigore tirato, naturalmente il viso e il corpo stesso, la postura esprime tutta la delusione del portiere della nazionale. Un'Italia indomabile porta i campioni del mondo ai tiri dal dischetto. Siamo fuori, ma si riparte da qui. Ora però ci lasciamo per una pausa, dove sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo visto tutti i titoli delle prime pagine, ora vediamo cosa c'è all'interno dei quotidiani di oggi. Torniamo sul Sole 24 Ore, sulle analisi sul dopo Brexit, anzi lo shock Brexit, come lo definisce appunto il Sole 24 Ore. Ci sono due pagine in particolare oggi che riguardano Milano, perché Milano si sta candidando a sede del EBA, che è la European Banking Authority, l'autorità che è un organismo dell'Unione Europea che dal 1 gennaio del 2011 ha il compito di sorvegliare il mercato bancario europeo. Quindi da Londra, per esempio, questa authority potrebbe spostarsi a Milano. È quella che Antonella Olivieri definisce la doppia opportunità che si apre per Milano, perché anche con il fatto che la borsa di Londra, adesso vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, però era anche da ratificare, mancava ancora la ratifica ufficiale della fusione con la borsa tedesca, la Deutsche Börse. Adesso vedremo un po' che ruolo nuovo potrebbe avere Milano. L'analisi è di Leonardo Maisano, lo spirito di emulazione per diventare Londra. E l'altro grande tema che potrebbe essere al quale la Brexit potrebbe dare una spinta è quello di Milano come hub high tech, soprattutto sfruttando l'area dove si è svolto l'Expo fino al 31 ottobre dello scorso anno, al 31 di maggio di quest'anno. Al 31 ottobre dello scorso anno, era iniziato in maggio. Il roadshow di Sala, Giuseppe Sala, è proprio andato a Londra questa settimana per promuovere Brexit sì, Brexit no, le opportunità che dà quest'area Expo e in generale le infrastrutture tecnologiche che Milano ha, perché in questo Milano è all'avanguardia rispetto al resto del paese, e quindi appunto un piano di promozione. In questo caso l'analisi è di Lello Naso, una città al bivio, medietà o eccellenza 4.0. E poi un'altra questione italiana che vogliamo continuare a seguire, che è quella dell'Ilva, la più grande acciaieria italiana. Molti pensano, e in effetti in un certo senso lo è, che il settore dell'acciaieria sia un settore maturo, ma è anche un settore importantissimo. In Giappone, per esempio, è cresciuto e continua a mantenersi grazie alla ricerca. E noi abbiamo questo gigantesco stabilimento dove lavorano 12.000 persone e altre 3.000 sono dislocate in altri stabilimenti, e sapete quanto è in difficoltà questo stabilimento. Si sta cercando una soluzione. Paolo Brico è andato a Taranto e ci racconta questo viaggio nella fabbrica. Noi dell'Ilva pronti a ripartire. Linee organizzate e produzione che nel 2016 potrebbe arrivare a 6 milioni di tonnellate. Dalla Repubblica vi segnalo, per tornare alla strage di Dacca, un'intervista a Talisma Nasrin, che è una scrittrice in esilio, pensate, dal 1994, condannata proprio dai radicali islamici del Bangladesh. E condannata e quindi fuggita dal suo paese anche per paura di essere uccisa, in realtà, secondo questa Francesca Caferri che l'ha intervistata e secondo appunto il suo racconto, non è mai stata difesa dalle autorità e dal governo. Silenzio e complicità di fronte agli estremisti, e questo appunto forse per cercare di capire come si arriva poi passetto dopo passetto, chiudendo gli occhi su alcune mosse o in questo caso appunto minacce a voci contrarie dell'estremismo, in questo caso dell'estremismo islamico, come si arriva poi a fatti come quelli di venerdì. La Repubblica si focalizza anche su un altro grande scacchiere della politica estera, che è quello al centro del quale c'è il presidente russo Vladimir Putin: business e relazioni dalla Turchia alla Cina, ecco il risico di Putin contro le sanzioni dell'Unione Europea. E questa mappa, quella che viene definita appunto la galassia di Putin, è di questo racconto è di Paolo Galimberti. Nonostante il prolungamento dei provvedimenti, perché le sanzioni sono state appena prolungate, deciso dall'Europa, la rete di alleanze politiche e militari di Mosca si trasforma in strategia diplomatica. Sempre dalla Repubblica, in questo caso sono le pagine di Milano, però in realtà poi il libro ovviamente lo trovate anche in tutte le librerie d'Italia, perché a Milano ci sarà la presentazione di questo libro che deve essere bellissimo, si chiama La strategia della farfalla e verrà presentato dall'autore Marco Belpoliti giovedì a Milano, e il titolo dell'intervista sulla Repubblica è Due o tre cose che ho imparato dagli insetti, e ovviamente lo cito un po' perché qui a Radio 24, una delle nostre trasmissioni più di maggior successo, è la zanzara, e spesso mi è capitato di sentire anche parlare di insetti, perché fa molto discutere e ridere sia i conduttori che gli ascoltatori, a volte le prese di posizione di altri ascoltatori, che per esempio di recente ce n'è stato più di uno, ha dichiarato di voler salvare le formiche e di cercare di camminare in modo da non calpestarle. Ecco, sulle formiche Belpoliti racconta: tutte lottano per il formicaio mentre noi siamo individualisti, creiamo pericoli più che difendere il nostro mondo. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo, abbiamo parlato della missione di Giuseppe Sala a Londra, Elisabetta Soglio lo ha intervistato, il sindaco di Milano, il neosindaco di Milano, in missione nella capitale inglese per portare un'agenzia dell'Unione Europea a Milano, che sia appunto l'ente bancario o il controllo delle banche o qualche altra agenzia, ancora non si sa, ma questo è l'obiettivo di Sala. A proposito del delitto e della sentenza a Massimo Bossetti per l'uccisione di Yara Gambirasio, c'è un'intervista di Giusy Fasano al genetista Emiliano Giardina, un genetista dell'Università di Tor Vergata, che racconta, abbiamo parlato del DNA come prova regina contro Bossetti, racconta: così ho smascherato ignoto 1, sapete ignoto 1, il nome dato alla persona a cui è stato attribuito il DNA, trovato il DNA da cui poi si è risaliti a quello di Bossetti, quella traccia era inconfutabile. Molti scienziati hanno confuso l'opinione pubblica, perché certo che questa è una di quelle questioni dove ci sono i dati della scienza e poi però c'è anche l'opinione, appunto, che si formano le persone sentendo pezzettini di informazione o magari sentendo parlare di DNA ma senza avere un background scientifico per capire davvero che tipo di ricerca si può fare adesso e come può essere usato il DNA nei processi. Una bellissima notizia, che poi sapete sono un po' appassionata di scienza, di Giovanni Caprara, pagina 25 del Corriere, ci racconta come il cielo dell'Antartide, secondo gli ultimi studi, stia guarendo, il famoso buco dell'ozono si sta riducendo. A proposito di sport, calcio a parte, la notizia di Djokovic l'avete sentita anche nel GR24, il numero uno del mondo è stato battuto al terzo turno da Quiri, che è solo il numero 41, e così insomma deve dire addio per quest'anno, per questa tornata al grande slam, cioè alla vincita di tutti i grandi tornei di tennis. E poi però nella stessa pagina, pagina 43, Gaia Piccardi ci racconta allarme Bolt, infatti Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo nei 100 metri, il suo record è 9 minuti e 58, e nei 200, 19 minuti e 19 secondi, ha una lesione alla coscia, forse si allontana la terza tripletta olimpica. A proposito di salute, sapete che alla domenica il Corriere ha un approfondimento sui temi della salute. Questo è un tema che riguarda, credo, la stragrande maggioranza di noi: occhi stanchi del computer. Un approfondimento su come, appunto, esiste ormai e sia certificata questa sindrome da visione al computer, che provoca la fatica di mettere a fuoco perché a volte si sta appunto troppo al computer. E poi, sempre per chi è appassionato di scienza, un disegno, uno schema, secondo me molto interessante, che spiega a chi fosse curioso su questo tema, è come funziona l'anestesia generale. I farmaci che si usano per indurre questo sonno artificiale, che serve per fare interventi che si prolungano nel tempo. Dalla stampa un'analisi interessante su quello che sta succedendo e che noi naturalmente non vediamo finché non ci svegliamo con la notizia di un attentato come quello di venerdì notte. Sta succedendo in Bangladesh lo scontro tra ISIS e Al-Qaeda per contendersi i kamikaze. E poi, visto che come spesso, forse un po' noiosamente dico, in realtà poi noi ci concentriamo sempre sulla cronaca, noi giornalisti o in generale i mezzi di informazione, e spegniamo la luce su altre crisi, una bellissima testimonianza dall'Afghanistan di Ahmad Sarkust, che insegna alle ragazze a Kabul la musica. Ecco come in Afghanistan sfido i talebani con la musica. Ha fondato una scuola e un'orchestra per bambini e donne ed è scampata un attentato, perché naturalmente lo volevano morto, perché secondo gli islamisti viola i loro valori. Della serie di inchieste che la stampa fa sempre, soprattutto la domenica, questa settimana dedicata alla giustizia, sapete che siamo tutti in attesa da anni di una riforma della giustizia, che è uno dei grandi problemi dell'Italia e che causa anche tanti problemi ad attrarre investimenti dall'estero, perché il nostro sistema giudiziario viene visto sempre come un labirinto in cui quando entri poi non sai quando e come ne uscirai. E in questo caso è un approfondimento sul flop della legge Pinto, che è quella che anche permetteva di indagare fare ricorso a sentenze giudicate ingiuste, giudici che processano giudici, una voragine da 750 milioni. Lo Stato debitore non ha abbastanza soldi per le vittime delle cause lumaca, e così 8.000 cittadini all'anno si rivolgono al TAR, che dà sempre loro ragione. Ci fermiamo ancora un attimo per un'altra pausa sul traffico. Ah, niente, non abbiamo perso il nostro collegamento con il traffico, restiamo sulla stampa. Molto interessante a proposito di scienza e di come sia difficile a volte, se non si è degli scienziati, capire i meccanismi matematici che ci sono dietro a eventi, tra virgolette, banali, come sono le lotterie. Sapete che c'è in questo momento un super enalotto da record, il montepremi ha superato i 100 milioni, caccia i 100 milioni, ma vincere alla lotteria è quasi impossibile. Super enalotto, montepremi da record, il 6, pensate, manca da un anno, però in questo articolo un matematico e un fisico ci spiegano perché giocare è irrazionale. Sapete che la probabilità non ha memoria, quindi anche quando si dice ma è successo ieri, sì, ma non importa, potrebbe risuccedere oppure potrebbe non succedere per tantissimo altro tempo. Parliamo della vincita al super enalotto, ma di qualsiasi altro evento. Sempre dalla stampa vi segnalo, come dicevo, richiamato in prima pagina l'articolo di Giulia Zonca, dove si dà conto di queste un po' polemiche in spirito contesco, potremmo dire, tanto appunto l'allenatore Conte, dopo, nella prima conferenza stampa dopo la partita di ieri, ha detto: in due anni nessuno al mio fianco, però lascio una macchina da guerra. Sul Messaggero trovate anche un po' di politica italiana: referendum e Italicum, Renzi blinda il PD, perché domani è prevista la direzione dei democratici, che era stata rinviata settimana scorsa dopo l'esito del referendum per la Brexit. La minoranza è pronta a chiedere le dimissioni del leader da segretario del partito. Siamo pronti però per il traffico. In primo piano. Rieccoci per l'ultima parte della rassegna stampa. Vi segnalo ancora, prima di passare ai supplementi della domenica, un articolo del Fatto sulla quarto di finale, sulla partita di ieri. La Germania vince di rigore, ma l'Italia non tira mai in porta. È forse di Roberto Beccantini, è uno degli articoli più critici sulla performance della squadra italiana. Insomma, viene da pensare che forse c'è un desiderio di essere perfettamente in linea con l'opinione del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che sapete non ha mai nascosto nelle ultime settimane che non avrebbe tifato Italia e che Conte gli dà, cito testualmente, stra fastidio. Un'ultimissima citazione dal Messaggero: ieri sono iniziati i saldi in tutta Italia e questo è forse il senso, questo titolo dà il senso di quello che del bilancio della prima giornata: flop in centro, pienone negli outlet. Forse l'avete sentito addirittura a proposito di aggiornamenti sul traffico. Spesso nelle prime giornate di saldi si formano addirittura delle code in prossimità degli outlet più famosi. Vicino a Roma ce n'è uno, ma ce ne sono tanti altri in Italia, perché naturalmente gli sconti, che già sono altissimi durante l'anno, con i saldi aumentano ulteriormente. Ma passiamo ai supplementi della domenica e cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore, e oggi trovo il breviario di Gianfranco Ravasi fantastico. Si intitola L'acqua, è una citazione di David Foster Wallace, lo scrittore americano, ed è questa: due giovani pesci nuotano, a un certo punto incrociano un vecchio pesce che procede in senso opposto, li saluta e chiede: com'è l'acqua? I due pesci lo ignorano, proseguono, e uno dice all'altro: ma cos'è mai l'acqua? Iniziò così il suo discorso ai laureandi del Kenyon College del 2005 lo scrittore americano David Foster Wallace, che 3 anni dopo sarebbe morto a soli 46 anni. E lui stesso spiegò così: il succo della parabola dei pesci è questo. La realtà più ovvie, onnipresenti e importanti sono spesso le più difficili da capire e da discutere. C'è un proverbio arabo che dice: che cosa c'è di più ovvio dell'aria? Eppure guai a non respirarla. Non abbiamo coscienza del primato assoluto che hanno le realtà elementari come aria, acqua, fuoco, energia. Le sprechiamo, le ignoriamo in modo incosciente, fino al momento in cui vengono a mancare e ci sentiamo afferrati alla gola. E allora perché non ringraziare il creatore o la natura, per chi non crede, per questi doni straordinariamente ordinari? E poi il memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che prende spunto da una lettera di un lettore e parla anche di Brexit. Il titolo è Il coraggio della verità e la terra amica da costruire. E vi leggo le ultime parole. Nel frattempo pensiamo in grande e operiamo con altrettanta incisività e serietà. I rischi e le paure di Brexit possono essere per Milano, ne riferiamo appunto, fa riferimento a quello che dicevamo delle opportunità per Milano, e l'Italia tutta una grandissima occasione di crescita. Dobbiamo crederci e assumere comportamenti coerenti, altrimenti saremo costretti a pagare ogni giorno un tributo sui mercati per la vulnerabilità italiana fatta di debito pubblico e di sofferenze finanziarie. Ma il pezzo principale della copertina si intitola Elogio della misericordia e prende spunto dal fatto che c'è in Italia la prima traduzione italiana moderna del De immensa Dei misericordia concio di Erasmo da Rotterdam, un testo, pensate, del 1524, che tocca temi come l'empietà, l'esistenza dell'inferno e la differenza tra amore umano e amore divino. A pagina 2, a proposito di Wimbledon, un bel racconto di Alessandro Merli su tutta la storia di questo torneo, e la recensione di Eliana De Caro a un libro di Dario Crestodina, 6 chiodi storti, Santiago 1976, la storica partecipazione dell'Italia alla Coppa Davis di quell'anno. Due, oltre a Elie Wiesel, si è spento ieri il poeta francese Yves Bonfoy, che viene definito da Carlo Ossola uno dei più grandi poeti del Novecento, che ha raccolto l'eredità più ardita di Giacomo Leopardi. L'articolo si intitola L'innesto dell'invisibile. E poi naturalmente anche invece un bellissimo ricordo di Giulio Busi di Elie Wiesel, Il peso delle colpe e dei silenzi. Lo trovate alla pagina 30 del Domenicale. Sulle mostre, della mostra di Isgrò trovate questa settimana una recensione di Ada Masoero, la mostra Palazzo Reale a Milano, di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa, e poi una pagina, praticamente una pagina intera invece, su quella di Escher, che si è aperta questa settimana sempre a Milano, le recensioni sono di Armando Massarenti e Marco Carminati. Tra arte e percezione visiva, la mostra milanese offre, oltre alle opere, un preciso percorso di concetti, idee, paradossi e riferimenti matematico-scientifici per capire divertendosi. E vale veramente la pena di andarla a vedere, perché i disegni, le illustrazioni, i dipinti di Escher credo sono stati tra i più usati barra abusati da tutti per illustrazioni, copertine di libri, manifesti. Qui però vedete veramente gli originali, e con questo percorso pensato in questa mostra forse si riesce a capire, andare un po' oltre le immagini solite che abbiamo visto tante volte, ma forse non abbiamo compreso fino in fondo, di questo grandissimo artista. La lettura affida la copertina, come sempre, a un artista, questa settimana Jan Davenport. Dall'interno vi segnalo, visto che abbiamo parlato tanto anche dopo il referendum di come si decide se con la testa o con la pancia, Riccardo Viale, prendendo spunto da due libri usciti di recente. Uno si chiama The World According to Star Wars di Carl Sustain, che forse ricorderete, anche l'autore di un libro di qualche anno fa che si chiamava La spinta gentile. Si intitola l'altro libro invece si intitola Cognitive Unconscious and Human Rationality. La recensione di Riccardo Viale di questi due testi è: che la forza sia con noi, le decisioni vanno prese di pancia. Un'anticipazione sempre sulla lettura del nuovo libro di Alessandro Piperno, lo scrittore che sapete spesso anche collabora con la lettura. Il nuovo romanzo sarà pubblicato il 4 ottobre, qui ci sono quasi 4 pagine di anticipazione, si intitola Dove la storia finisce, e il titolo scelto per darci un po' così incuriosirci su questo libro è Le possibilità dei desideri. Vi segnalo ultimissima segnalazione che riesco a farvi dalla Repubblica. La Domenica della Repubblica prende in esame in un modo molto curioso e divertente il famoso paniere dell'Istat, in cui vengono messi un po' artificialmente tutta una serie di prodotti e di servizi per capire poi come vanno e come va l'indice dei prezzi. Quasi sempre c'è inflazione, poi sappiamo che, come di recente, può anche esserci stabilità o addirittura deflazione. Il nostro paniere quotidiano è uno dei due articoli di Michele Serra, che racconta come questo paniere sia cambiato negli anni per cercare di riflettere meglio le società. Ieri il disoccupato con il televisore, oggi il precario con lo smartphone. Era però davvero l'ultima segnalazione. I giornali di oggi sono ricchissimi, come abbiamo detto, di tante analisi, ma anche di tanti approfondimenti culturali. Come sempre il mio consiglio: compratene più di uno. Un grazie a Peter Bescapè in regia e una buona domenica a tutti voi.